Beh, la ragione è una sola, che è quella che noi amiamo la verità, e la verità su questo libro purtroppo non è scritta in nessuna pagina, e quindi la ragione per la quale diciamo che questo non è un libro di storia, ma è un libro che potrebbe essere di qualunque fantasia, insomma, forse la fantasia peggiore, ha trovato le parole in quel libro, ma questo non si può definire un libro di storia, e poiché tale invece vorrebbe essere, noi diciamo, attenzione, questo non è. La stagione del revisionismo sui presunti crimini dei partigiani l'abbiamo vissuta qualche tempo fa in Italia, in particolare con i libri di Pansa. C'è un nuovo, come dire, una nuova ondata di revisionismo? Ma c'è un'ondata forse di revisionismo, ma forse c'è anche un'ondata che ritengo altrettanto pericolosa di disconoscere i valori per i quali i partigiani hanno lottato, hanno combattuto, quindi che abbiano combattuto, questo noi non lo neghiamo assolutamente, e questo ovviamente era in un periodo in cui era guerra, e loro hanno fatto guerra alla guerra, come dice il partigiano italiano, no? Quindi io credo che siamo in un'onda assai pericolosa, laddove si tende a mistificare qualunque verità, e soprattutto i comportamenti, gli atteggiamenti poi delle persone diventano poi comportamenti che in molte occasioni sono a dir poco scomposti, ma sono forse anche pericolosi. Molti sono i segnali che noi purtroppo registriamo in questi giorni, le svastiche sulle porte della scuola, del liceo, il comportamento di quel genitore che offende l'allenatore della pallavolo, delle ragazze della pallavolo, cioè sono tanti, e queste sono le conseguenze. Il nostro compito è quello di conservare la memoria, è il nostro primo compito, ma è anche quello di fare cultura, una cultura soprattutto antifascista. L'anno scorso diversi comuni, tra cui anche quello di Bologna, si sono dotati di regolamenti per evitare la concessione di sale a iniziative anche di questo tipo. Qualcosa non ha funzionato? Probabilmente non è sufficiente questo, il documento che è stato approvato. Bisognerà forse approfondire dal punto di vista giuridico e anche amministrativo, perché non credo che l'amministrazione comunale di Bologna, della quale insomma ho pieno rispetto e sono certa che è, così come è stato già dichiarato anche da componenti autorevoli di questa giunta e di questo consiglio, il fatto che stiano con l'AMPI, credo che forse bisognerà approfondire alcuni aspetti che possono garantire meglio e di più la collettività, la società, che queste cose non si vuole assolutamente, voglio dire, negare, ma credo che i luoghi pubblici debbano garantire la presenza dei valori comunque, e quindi credo che invece in quella sala si presenteranno i disvalori.